buonasera a tutti, grazie di essere qui se ci siete e grazie di arrivare qui. Siamo ormai noi di Cerrano Web, Radio Cerrano Web. Vi ricordo che si tratta di un web radio che trasmette dal comprensorio e dal territorio del Cerrano, parco marino notissimo del centro Italia, tra Pineto e Silvi. Noi siamo quelli di Radio Cerrano, appunto. E questa sera il mio programma, alias Carl Bart e Boom, che sarei io, il mio programma Schegge, cercherà di portarvi, di prendervi per mano e portarvi attraverso le note di un famosissimo gruppo. Stiamo parlando di un gruppo che nella propria carriera ha venduto più di 150 milioni di dischi, e questo la dice lunga. E stiamo parlando dei 30 artisti, quindi 30 musicisti di maggior successo commerciale di tutti i tempi. Allora, stiamo parlando dei Genesis, parleremo dei Genesis questa sera, gruppo britannico, un gruppo che in pratica si è inserito e poi ha trascinato per un periodo, non per tutto la loro vita artistica, nel cosiddetto rock progressivo. È sicuramente uno dei gruppi più importanti della storia del rock, ve ne accorgerete insomma via via quando snoccioleremo un po' non solo le cifre ma anche i successi di questo gruppo. Sicuramente dobbiamo parlare di un gruppo che in qualche modo ha una linea di demarcazione ben precisa, cioè il prima e il dopo Peter Gabriel, o meglio potremmo dire il Peter Gabriel period o il Phil Collins period, però insomma stiamo parlando di un gruppo che ha saputo riconvertirsi, che naturalmente nel primo periodo ha subito non poco l'influenza artistica e geniale di Peter Gabriel, per poi passare a una genialità un po' più, insomma, easy listening, come dicono i più bravi, di Phil Collins, che ha colto al balzo determinate sonorità, e quindi proponendo determinate sonorità che poi hanno avuto un successo planetario. Io direi di passare subito no, prima però, ecco, è meglio ricordare qualcosa. Meglio ricordare che cosa? Che voi Radio Cerrano Web, come dice il nostro stacchetto, lo potete ascoltare su una serie di piattaforme musicali, ma ci potete anche vedere in diretta su Periscope. È questo canale che abbiamo creato anche per rendere la radio non solo ascoltabile ma anche visibile. La cosa ci piace molto, la cosa ci affascina, a noi, a me, Carlo, il mio alter ego, perché comunque noi ogni sera diciamo la stessa cosa: ma chi ce lo doveva dire? Ma com'è possibile? Ma perché? Ma com'è possibile che noi siamo qui a fare ancora radio dai tempi delle radio libere, e questa volta con una serie di ritrovati tecnologici che ci permettono di far viaggiare non più nell'etere ma nella rete le nostre parole e la nostra musica. Motion, squirming around and up and down. con questo brano tratto direttamente dal dall'LP, diremmo, dall'LP che porta il nome di From Genesis to Revelation. Stiamo parlando del 1969. Questo è il primo disco prodotto da questi quattro ragazzotti. Sì, li dobbiamo chiamare così, perché il nucleo principale si formò a Godalming, che è una cittadina nei pressi di Londra, e loro frequentavano un po' tutti la stessa scuola, cioè la Charterhouse School, un college che era frequentato un po' da ragazzi della buona borghesia britannica. E la prima formazione nacque tra la fusione di due band di quel tempo giovanili, gli Anon, di cui facevano parte Rutherford e Anthony Phillips, le chitarre, Gordon Well, e poi l'altra formazione, i Banks, l'altra formazione, scusate, i Garden Well, formati da Banks e Gabriel. Quindi la fusione diede nome di questi due gruppi, diede vita ai Genesis. Genesis, il nome Genesis, bisogna ricordarlo, è un nome che viene fuori dalle prime tematiche di carattere un po' biblico di cui trattava il gruppo, ecco, quindi appunto dalla Genesi, quindi dal libro della Genesi, loro presero il nome e poi insomma se lo portarono dietro per tantissimo tempo. Dicevo che questo brano che abbiamo ascoltato, da From Genesis to Revelation, fu inciso per la Decca, quindi già un'etichetta abbastanza importante. L'album praticamente doveva essere una sorta di concept, come si dice, un concept a sfondo religioso, appunto, e da qui anche poi una serie anche di dispute, perché comunque i primi produttori non erano molto d'accordo su questo tipo di tematica da sviluppare. E già in quel periodo comunque ci sono le prime defezioni, perché comunque Stewart viene sostituito da John Silver e poi diciamo che c'è una sorta di ancora strada da trovare, no? Da parte di questi giovani musicisti, e quindi il disco insomma è un disco ancora incerto per quanto riguarda sia le tematiche, come vi dicevo prima, sia anche le caratteristiche musicali, e tant'è insomma che il disco non è che ebbe un grossissimo successo, e questa cosa quindi gettò un po' nello sconforto i giovani Genesis. E qui insomma entrano, stiamo parlando 1969-70, soprattutto nel 70 entrano nuovi componenti, soprattutto il ruolo del batterista era stato inizialmente abbastanza tormentato per questo gruppo, e loro poi introducono dentro un altro batterista, quindi dopo la sostituzione di Silver entra dentro John Mayhew, che fa parte di quel gruppo, di quella formazione, che poi incide il secondo brano, il secondo disco dei Genesis, abbastanza conosciuto. 1970, Trespass è il secondo album. Trying to find a memory in a dark room. Dirty man, you're looking like a Buddha. I know you well. Yeah. Keep on a straight line. Nobody needs to do. the trees to keep you warm in peaceful shades of green. Yet in the darkness of my mind, Damascus wasn't far behind. Lost in a subway, never tells me anything. Yeah, nobody needs to discover me. I'm back again. You feel the ashes from the fire that kept you warm. Its comfort disappears. But still the only friend I know will never tell me where I go. Dai. 1970, Trespass è il brano, e il CD, no, mi viene sempre dire CD, no, ormai LP, è il disco che comunque cambia radicalmente la linea musicale dei Genesis, perché per la prima volta loro solcano la via del progressive. Lo si nota da una serie di cose, già dalla lunghezza dei brani, ad esempio, ecco, questo è un brano che dura circa 6 o 7 minuti, ma poi ce ne sono altri che nei concerti addirittura arrivano a 20 minuti. Knife è uno di questi. E dobbiamo dire che c'è anche il tour promozionale di Trespass che comincia a far conoscere i nostri ragazzi dei Genesis. È un tour, non è che veramente eccezionale, ma che in qualche modo li comincia a far notare anche da un pubblico, da questi nuovi cultori del progressive, perché comunque stiamo parlando proprio degli albori del progressive rock. E ci sono una serie di aneddoti, tra i quali quello che si racconta, che ha raccontato Gabriel in una intervista, nella quale ricordava che ad assistere al concerto c'era una sola persona, e lui, per sdrammatizzare un po' la situazione, cominciò a dire se l'unico spettatore avesse qualche richiesta. E quindi diciamo che tra il 69 e il 70 questi sono due anni fondamentali, perché il gruppo cresce, comincia ad avere più stabilità nella lineup, e quindi comincia ad avere anche un assetto, diremo, quasi definitivo. E il 1970 è anche l'anno in cui c'è il provino a Phil Collins, un provino che i giornalisti specializzati raccontano essersi svolto a casa dei genitori di Gabriel, di Peter Gabriel, e Phil Collins subito stupisce l'intero gruppo per il suo grande talento batteristico e anche per la sua capacità, come dire, teatrale. Questo suo istrionismo, in qualche modo, ce lo dobbiamo un po' ricordare, perché è una caratteristica che poi entrerà in grossissima rotta di collisione con Peter Gabriel, credo, perché a un certo punto Phil Collins comincia un po' a rubare la scena a Peter Gabriel, e da lì, insomma, non è che nascano i dissidi fondamentali che poi portarono alla rottura, ma in qualche modo, secondo me, secondo tantissimi esperti del caso, si influì sulla decisione di Peter Gabriel. Nel 1970, attraverso un annuncio sulla rivista Melody Maker, arriva anche un altro pezzo da 90, che poi si rivelerà naturalmente un altro pezzo da 90. Stiamo parlando di Steve Hackett, che proveniva da una formazione, i Quiet World, e quindi aveva ascoltato già l'LP Trespass, e quindi aveva anche visto i Genesis in concerto, e quindi si fiondò a questo provino, per poi essere naturalmente inglobato nella formazione. Ecco, vi dicevo quindi che il 1970 è un po' l'anno in cui la lineup prende vita, prende corpo in maniera poderosa. E poi c'è da dire anche che nel 1971, quindi nell'anno successivo, arriva un po' la svolta della carriera, perché il produttore della Charisma, Stratton Smith, proprio per lanciare una serie di gruppi della propria scuderia, comincia a organizzare una tournée europea che coinvolge i gruppi più promettenti, secondo lui, e li lancia nel panorama musicale. Stiamo parlando dei Van der Graaf Generator, dei Lindisfarne e naturalmente dei Genesis. I Genesis dovevano essere un po', tra virgolette, la ruota di scorta di questa tournée, invece poi si riveleranno nel corso delle date, si riveleranno veramente la sorpresa, soprattutto per il carattere istrionico, per il grande carattere, per la grossa tenuta del palcoscenico, dello stage, da parte di Peter Gabriel, che in qualche modo attrae su di sé tutte le sue. watching all the skies want to roll. It's the world alone, no one's own. He who like and know no surprise, raising his eyes, behold a black alone. This flag and soil, now the reign has come to end. Is life again destroyed? Life, do they play elsewhere? Do they know more than their child again? Maybe the reason changed too. The end has long been The Musical Box è il titolo dell'LP che incidono nel 1972, se non sbaglio, no, sempre nel 71. E prima abbiamo ascoltato un brano tratto dall'LP Nursery Crime, un altro LP che in qualche modo segna la definitiva consacrazione del gruppo. E perché attraverso questi due LP, Nursery Crime e The Musical Box, in pratica si fanno conoscere soprattutto in Europa. E sono un po' tre i gruppi che in quel periodo sfondano nel panorama progressive di quegli anni. Diciamo, insieme ai Genesis si parla degli Yes e degli Emerson, Lake and Palmer. Sono questi un po' i gruppi che andavano per la maggiore, e però la cosa che c'è da dire è sicuramente che i Genesis danno vita a uno stile inconfondibile. Quindi si prende un po' la scena, i Genesis prendono un po' la scena europea, e grazie soprattutto a Peter Gabriel, e possiamo dire che da Musical Box in poi, fino a quando non van via, Gabriel prende in mano un po' su di sé la responsabilità, no, di questo gruppo. E poi c'è anche da dire che il gruppo era comunque formato da musicisti veramente eccellenti, e ognuno di loro in fase di composizione, in fase di proposizione anche per quanto riguarda i brani da inserire, dà un apporto importante. Ecco, io credo che una delle caratteristiche che ha portato al successo i Genesis è stata proprio la poliedricità e la grandezza a livello musicale dei propri componenti, per non dimenticare poi la grande teatralità, il grande istrionismo di Peter Gabriel, che naturalmente poi dopo l'era Genesis sappiamo che tipo di sviluppi ha avuto. E quindi che succede? Succede che nel momento in cui loro hanno questo grossissimo successo con The Musical Box, si comincia a pensare a un tour abbastanza più ampio, e poi dicevo per farli conoscere maggiormente, ma la loro vena poetica e la loro vena compositiva anche sembra inesauribile, perché a distanza di un anno, quindi 1972, esce un altro bellissimo album che poi verrà ricordato nel tempo, e stiamo parlando di Foxtrot. The Knife. Dicevamo 1973 con questo brano, con questo, scusate, LP che in qualche modo li lancia definitivamente nel panorama musicale. Già erano conosciutissimi, stiamo parlando di Foxtrot. Naturalmente il brano che invece stiamo ascoltando in sottofondo è Knife, che faceva parte di un album precedente, e quindi ripercorrendo un po' le tappe importanti di questo gruppo, dobbiamo ricordare che in mezzo, anche nel 1973, ci sono una serie di, anzi c'è un, il loro primo album live, appunto Genesis Live, e questo è un brano, è un LP tratto da due registrazioni fatte in concerti di Manchester e Leicester, e questi nel mese di febbraio del 73. Quindi questi due concerti, o le registrazioni di questi due concerti, diventano un live. E stiamo parlando di 5 brani, ed è anche un LP che in qualche modo presenta un gruppo, quindi presenta dei Genesis più elettrici, più un po' rockettare, ecco, chiamiamolo così. E dentro questo brano, appunto, questo LP, c'è il brano che stiamo ascoltando, Knife, in questa versione qui, questa versione un po' più elettrica, un po' più, come dire, che ti tiene su per le corde, mentre nel 1974, quindi dopo Foxtrot, arriva quello che molti dicono uno dei capolavori, Selling England by the Pound, un LP fortemente influenzato naturalmente da Peter Gabriel, ed è sicuramente l'album più venduto dell'era Gabriel, piazzandosi al terzo posto nella classifica degli album più venduti in Gran Bretagna in quel periodo. E adesso ascoltiamoci questo brano che amo tantissimo, un brano che mostra invece una faccia diversa dei Genesis, e cioè The Cinema Show. No mystery. Bellissimo, bellissimo anche questo cambio, questo cambio senza soluzione di continuità, veramente uno dei brani più, beh, io più amati dal sottoscritto. Selling England by the Pound, un titolo stranissimo, ma è un titolo che arriva direttamente da un manifesto del Labour Party. Vendisi Inghilterra un tanto al chilo, un po' questa la traduzione così alla buona, ed è un verso tra parentesi del brano di apertura Dancing with the Moonlight Night di Peter Gabriel. Appunto, Peter Gabriel rubò questa frase a un manifesto del partito laburista, come vi dicevo, e anche lì cominciò un po' a delinearsi e comunque anche a venir fuori la vena poetica, o se volete sociale, di Peter Gabriel, perché comunque in quel brano Peter Gabriel denunciava un po' quella che era la svendita, a suo avviso, del paese a degli interessi del tutto finanziari ed economici. E il discorso è che non entrò fortemente, come sarebbe poi entrato in seguito nella sua carriera da solista Peter Gabriel, in queste tematiche, ma cominciò ad avere queste venature. I ben informati dicono che anche questa mantenersi un po' troppo sul vago su determinate tematiche portasse dissapori all'interno del gruppo. E il problema è che fino a quel momento, e poi magari anche in seguito, i riferimenti culturali dei testi erano quasi sempre magari del folklore, si parlava del folklore, della storia dei britanni, e fino anche ad arrivare alla letteratura, come, perché si attingeva, cioè Gabriel attingeva a piene mani anche da Romeo e Giulietta di Shakespeare, o di Tiresia, soprattutto nel brano che stiamo ascoltando adesso, di The Cinema Show. La particolarità di questo disco sta nel questo alternare un po' brani sintetici, diciamo, nel senso brani in cui entra per la prima volta il sintetizzatore di Tony Banks, e non era una cosa usuale per quel periodo. E, dicevo, anche l'alternanza tra brani brevi e brani un po' più lunghi, ecco, questa è stata una caratteristica che ha segnato i Genesis per diverso tempo, no? Quello poi di allungarsi anche in questo cinema show e anche di cambiare, come dire, tematica musicale. Lo potete ascoltare, si è passati, no, da quelle sonorità dolcissime dell'inizio, per poi cambiare completamente tempo e anche modalità di suono. E allora io direi di cambiare ancora marcia e di passare al prossimo brano. Gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture, a chord in celluloid. There's no hiding the memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they have more lifeblood than before. They're moving time to a heavy wooden door where the needle's eye is winking, closing on the port. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. In the faces that I see, it's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight, the sunlight that takes root in every tree. They're pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawled us. Mild Man and Superman, a Carpet Crawl, The Carpet Crawl o Carpet Crawlers, il brano che abbiamo ascoltato adesso e che originariamente fu pubblicato sul concept album di cui vi parlavo prima, The Lamb Lies Down on Broadway, 1974, ma l'anno successivo è stato estratto come singolo dall'album ed è la particolarità di questo brano che è l'ultimo brano, 1975, l'ultimo singolo della band cantato da Peter Gabriel. Stiamo parlando quindi di un 45 giri. Sul lato B verrà una versione live di un altro brano dell'album, The Waiting Room, nel 99, tra parentesi, fu pubblicata come singolo, una versione registrata nuovamente dal gruppo intitolata The Carpet Crawls 1999, e fu l'ultimo singolo registrato appunto dai membri della formazione originale della band, e cioè Gabriel, Rutherford, Bank, Collins e Hackett. They pray for thunder, clouds and rain. But to the multitude who stand in the rain, heaven is where the sun shines. The grass will be greener till the stems turn to brown, and thoughts will fly higher till the earth brings them down. Forever caught in desert lands, one has to learn to disbelieve. The seeking. If this desert's all there ever be, then tell me what becomes of me. Before love rains, must have been another of your dreams, a dream of mankind. Fino all'ultima goccia, di, fino all'ultima nota anche di questo splendido brano, e cioè Madman Moon. E dicevo, è un brano tratto dal primo album in cui i Genesis sono orfani di Peter Gabriel. Come avete potuto sentire, la voce è quella di Phil Collins. E in effetti Gabriel aveva preannunciato il suo addio, e lo fa, il suo addio ai Genesis lo fa proprio alla fine del lungo tour The Lamb Lies Down on Broadway, e quindi lascia definitivamente. E in questo momento poi entrano sia il batterista Phil Collins, nel senso entrano come autori, come dire, maggiori, e il bassista chitarrista Mike Rutherford, che partecipano proprio alla realizzazione di questo brano, di questo LP. Naturalmente loro fanno anche una serie di tentativi, ad esempio c'è lo Steve Hackett che produce un album da solista, però poi subito dopo comincia la nuova pianificazione di Genesis, come dire, il nuovo corso di Genesis. E quindi il brano che abbiamo ascoltato, a mio avviso, è forse il più rappresentativo, e anche il più melodico, il più dolce, ecco, se volete. E hanno di questi picchi i Genesis, e cioè nel brano, nell'LP Trick of the Tail, questi momenti così dolci poi vengono anche affiancati da momenti strumentali forti di insieme, e c'è questa vena progressive, vena, oddio, diciamo che loro sono un po' i rappresentanti principali del progressive che in quel periodo andava per la maggiore. E le tematiche sono tematiche di carattere fiabesco, lo potete anche notare se qualcuno si ricorda anche la copertina dell'LP The Trick of the Tail. Dicevo, la potete ricordare anche dalle copertine di quel periodo dei Genesis, copertine tutte un po' giocate su situazioni, come dicevo, fiabesche e anche oniriche a volte, e questo sicuramente brano è insieme a quello che vi sto per proporre, e li rappresenta forse al meglio, e andiamo ad ascoltarcelo. Every size, Some are wise and some are the wise. They got pretty blue eyes. For now a man may change. For now a face looks strange. Looks strange, looks strange. Marching to the promised land, the honey flows and takes you by the hand, pulls you down on your knees. While you're down, a pool appears. The face in the water looks up, and she shakes her head as if to say that it's the last time you'll look like today. Thank you. La lunghezza dei brani è sicuramente un tratto distintivo del periodo progressive, un momento in cui i musicisti danno sfogo a tutta la loro creatività. Era un po' questo il senso del periodo progressive e anche alla loro maestria. E sicuramente poi sono brani che sono rimasti nella storia della musica internazionale. Questa Carpet Crawl, Ripples. È un errore che facevo anche ai tempi delle radio libere, questo qui. E chiedo venia, naturalmente. Dicevo che anche Ripples fa parte dell'LP Trick of the Tail, che, come vi dicevo prima, è un LP che riprende in qualche modo lo stile narrativo fiabesco degli inizi dei Genesis. Quindi andato via Peter Gabriel, i Genesis ritornano un po' all'antico, se possiamo dire così. E poi naturalmente si ispirano anche degli autori letterari come Carlos Castaneda, questo lo potete ascoltare in un brano, Dance on a Vulcano, o William T. Cox in Squawk. E poi ci sono anche una serie di storielle di fantasia come l'avventura semiseria del repennatore solitario in Rubbery, e anche quella strana creatura che dà un po' il titolo a tutto l'LP, con coda e corna. La cosa interessante è che nel 1976 iniziano anche questi passaggi video, nel senso che si capisce a livello commerciale che oltre alla musica c'è bisogno anche di immagine, cioè ci si accorge che le immagini colpiscono molto di più, e quindi inizia anche il periodo dei video. Dei brani che sono contenuti negli LP, e i Genesis non mancano di fare questo, lo fanno appunto con due video promozionali, chiamiamoli così, il primo è in cui appare appunto nella storia del rapinatore maldestro, in cui appaiono un po' tutti, il rapinatore e Phil Collins, poi il gendarme Mike Rutherford, e mentre il secondo brano tramutato in video vede tutto il gruppo riunito intorno a un pianoforte. E poi da Ripples naturalmente fu tratto anche un promo che ritrae esclusivamente Phil Collins che canta accompagnato dagli altri tre Genesis. I caught a glimpse of in the night. Altro brano celeberrimo, Afterglow, è un brano che ha segnato anche tanto la produzione dei Genesis, un brano che ha avuto un ottimo successo, come vedete, un brano che comunque nella sua brevità è stato comunque inserito. E come avete potuto ascoltare, c'è qualcuno insomma che parla della voce di Phil Collins quasi un po' a copiare, non dico quella di Peter Gabriel, le assonanze sono tante e comunque sono assonanze gustose. Comunque qualcuno ha detto che forse Phil Collins come voce è leggermente superiore a Gabriel, mentre Peter Gabriel ha avuto poi un'evoluzione del tutto sua. Possiamo sicuramente dire che Peter Gabriel con il suo Shock the Monkey è il precursore della cosiddetta world music, o comunque della cosiddetta musica etnica, che riprende dalle radici più antiche determinate sonorità e poi le rielabora e le mette sul disco. Phil Collins ha avuto un'evoluzione un po' più diversa, forse un po' più di successo, ma a suo modo, a loro modo, i due sono due geni della musica moderna. Play me my song. Here it comes again. Play me my song. Here it comes again. 1977 arriva anche l'addio di Hackett dal gruppo, e c'è una separazione non tanto consensuale veramente, esasperato infatti dalla leadership di Tony Banks in sala di incisione e anche un po' dall'atteggiamento non sempre collaborativo degli altri compagni di gruppo, questo secondo le dichiarazioni dello stesso Hackett. Per quanto riguarda le linee compositive, il musicista lascia la band. C'è da dire che poi Steve Hackett è rimasto un po' legato a quelle che sono le sonorità, chiamiamole stile Genesis, non le ha tralasciate, e a differenza degli altri, a differenza, come vi dicevo, di Peter Gabriel, che ha trovato una sua strada sicuramente alternativa, ma sicuramente anche come posso definirla, non sui Genesis, ma di particolare rilevanza, perché comunque con Shock the Monkey, come vi dicevo prima, Peter Gabriel ha aperto nuove frontiere musicali che poi sono state seguite in generale. E lo stesso Phil Collins nella sua carriera solistica, no, ha deciso di intraprendere una strada discutibile o meno, ma una strada sua che lo contraddistinguesse rispetto ad altri musicisti. Nel caso di Steve Hackett invece questo non è avvenuto, nel senso che sembra quasi che il musicista sia rimasto proprio ancorato a quell'esperienza, all'esperienza Genesis dei Sailing England by the Pound eccetera, e non dico bloccato, ma comunque non ha avuto quella grossissima soddisfazione, pur rimanendo un grossissimo musicista, degli altri due leader, se possiamo così dire. Benissimo, benissimo, benissimo, questa musica ci riempie il cuore. Vi devo ricordare, lo devo fare per contratto, che state ascoltando ma lo faccio anche con piacere naturalmente, che state ascoltando Radio Cerrano Web, e questa è una radio completamente autogestita, ma completamente diciamo legata al Parco Marino Torre del Cerrano, che è uno dei parchi marini più particolari della costa italiana. È un parco marino dove potete trovare naturalmente una fauna e una flora unica, ma anche delle tracce storico-culturali molto profonde, molto antiche. Stiamo parlando ad esempio dell'antico porto dell'Atria romana, che è proprio di fronte allo splendido scenario in cui è incastonata la Torre del Cerrano, che vi invito a visitare. Quindi, siccome ci state ascoltando da tutto il mondo, venite da noi, in Abruzzo si sta bene, in Abruzzo si vive bene, lo ha detto anche Forbes, e quindi noi siamo ben felici di ospitarvi e di mostrarvi quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura, che è antichissima, e i nostri, anche il nostro cibo, perché no? Dicevo, questa è Radio Cerrano, noi stiamo trasmettendo anche in diretta da Periscope, quindi ci stiamo trasformando quasi in televisione, quindi abbiamo sia il video che l'ascolto, questo grazie ai potenti mezzi messici a disposizione dal nostro direttore, che è qui alle mie spalle, Carlo. E noi siamo due reduci delle vecchie radio libere, e quindi siamo contentissimi di rimetterci in gioco anche con queste nuove tecnologie. E le piattaforme su cui ci potete trovare sono Listen to My Radio, TuneIn, Radio Garden, naturalmente siamo su Facebook, siamo su Live Online Radio, e poi abbiamo anche un nostro blog da cui potete ascoltare direttamente la nostra radio, cioè www.radiocerrano.net. Queste sono le nostre coordinate. Adesso ascoltiamoci ancora i Genesis, protagonisti di questo programma. Here by my side, forever I need you. Follow You, Follow Me e Many Too Many che abbiamo ascoltato prima sono sicuramente i due brani più rappresentativi per quanto riguarda la svolta, la virata pop del gruppo. Si sente che un po' Phil Collins ha preso in mano la situazione, quindi questi brani che si allontanano decisamente da quella che era la connotazione progressive del gruppo, che appartengono poi tra parentesi all'LP, all'album And Then There Were Three, nel 1978, dicevo, qui c'è il primo cambio abbastanza corposo del gruppo, che poi naturalmente troveremo in maniera molto ma molto più decisa nel brano che ascoltiamo. Dicevo che in questo LP Ab Cab, che dà il nome a, questo è il brano che dà il nome a tutto l'LP, a tutto l'album, all'epoca ci si arrovellava un po' per capire che razza di titolo fosse, e poi ci pensò l'autore del brano, il chitarrista Mike Rutherford, a dare una spiegazione, perché comunque questo è un brano, è un album che prende il nome dalle tre parti musicali che sono presenti nel brano complessivamente, cioè tre parti musicali che dicono, diceva appunto, raccontava Rutherford a un giornalista, I Genesis chiamavano A, B e C, e in momenti diversi erano in ordine diverso. Iniziavano con la sezione A, poi la sezione C, e a un certo momento l'ordine delle sezioni formavano la parola Abacab, e la versione finale comunque non è così poi, perché comunque è qualcosa del tipo Hbac eccetera. Però poi piacque questa grande idea e la presentarono così. E dicevo, qui l'influenza pop, anche un po' più, come dire, commerciale, si sente benissimo, e anche la verità, Phil Collins dà un po' la sua impronta che poi ritroveremo anche nei suoi brani, nei suoi album da solista. La virata è notevole, la virata è come dire, veramente la si tocca con mano, no? È la virata, dicevo, artistica del gruppo. Siamo ai primi anni 80. That's All è il brano che abbiamo ascoltato in questo momento. È un altro gruppo, sicuramente è un altro gruppo, non quello degli albori, però sicuramente c'è da dire un'altra cosa, che l'evoluzione musicale fa parte un po' del gioco, l'evoluzione anche artistica fa parte del gioco, anche quella narrativa è compositiva. La gente cresce, la vena narrativa, la vena compositiva naturalmente si arricchisce, allo stesso tempo si impoverisce, e quindi si cercano altre strade. Naturalmente i Genesis, in momenti in cui il Phil Collins comincia anche a, ad avere altre collaborazioni, perché Phil Collins tenta già la via solista e anche la collaborazione con gruppi fusion jazz, un genere di cui lui è abbastanza innamorato, e dicevo, è questo che poi porta anche a questo tipo di composizione. Non sono da dimenticare, o comunque da sottovalutare, anche poi le influenze di tipo personale. Ad esempio Phil Collins proprio in questo periodo vive un brutto periodo, un brutto momento con la separazione della moglie, che, pensate un po', scappa via di casa con un imbianchino, e lui, tra parentesi, qualche tempo dopo aver superato un po' questa situazione, si presenta durante un concerto con un grosso barattolo di tinta bianca e il vestito un po' da imbianchino per esorcizzare anche il dolore. Around. Invisible Touch, e questo è il brano che stiamo ascoltando, ma è anche il brano che dà il titolo all'album. Un brano, un album che è stato registrato nel 1985, se non sbaglio. Adesso controllo subito. No, 1986, ho sbagliato di un anno. E dicevo, è un album che prelude un po' allo scioglimento definitivo dei Genesis. E questo è un brano, è un album che è stato registrato un po' dopo un periodo di pausa per i Genesis. E in questo periodo di pausa Mike Rutherford formò un gruppo che si chiamava Mike and Mechanics. Tony Banks lavorò a un album con un album soundtracks, e Phil Collins pubblicò il terzo disco da solista in questo periodo, dicevo, di pausa, No Jacket Record, che lo portò al successo mondiale. Quindi i prodromi, come direbbero i forbiti, c'erano tutti per poi arrivare alla rottura, o comunque allo scioglimento. Non possiamo parlare di vera e propria rottura, se non quella tra i Genesis e Peter Gabriel, che poi si è ricomposta un po' alcune volte. Però il gruppo si stava sfilacciando, e naturalmente soprattutto Phil Collins stava capendo che il suo momento era arrivato, e che la sua vena artistica stava emergendo più rispetto agli altri. E quindi siamo quasi alla fine di questo splendido viaggio fatto attraverso la musica dei Genesis, che vi ricordo è iniziata nel 69 e poi si è conclusa negli anni 90. Adesso ci ascoltiamo quest'altro brano celeberrimo. Nothing could go wrong. Well, now I know. sì, va bene, me ne siete accorti tutti, ho toppato sul titolo del brano. Naturalmente il brano che abbiamo ascoltato prima era Dead Soul e dava il titolo all'album Dead Soul 1983, sì, è un brano che fa parte del, no, un brano, scusate, Dead Soul è un brano che fa parte dell'LP Genesis. Ne hanno fatti tantissimi di LP, Genesis e anche dal vivo, quindi ogni tanto si perde un po' la cronologia. E dicevo, quello che abbiamo ascoltato prima e quello che abbiamo ascoltato adesso invece è Invisible Touch, che dà il titolo appunto a tutto l'LP, ed è, dicevo prima, un po' un LP, un album che prelude un po' allo scioglimento definitivo dei Genesis. Tonight, quindi stanotte, è un altro brano appartenente all'album Invisible Touch. Beh, come potete sentire, le percussioni che debordano in qualche modo, la voce di Phil Collins che la fa da padrona, e questo è il nuovo stile, l'ultimo stile dei Genesis. Siamo proprio lì per arrivare a quella che sarà poi il definitivo scioglimento di questo celeberrimo gruppo. E Tonight, Tonight, Tonight è un brano che è stato, come dicevo, come l'album pubblicato nell'87, e poi però nel 99 nel 99 c'è stata una riedizione del brano. Anche in questo momento, in questo caso, poi, ecco, una cosa che dobbiamo ricordare: questo ultimo periodo dei Genesis è contraddistinto anche da quella che è la l'esplosione dei video. I videoclip sono ormai sono parte integrante un po' di tutto il sistema mediatico musicale, e molti si affidano anche a mani esperte, a registi esperti per girarli, perché capiscono che l'immagine colpisce molto di più rispetto alla musica, e questo connubio immagine e musica la fa da padrona, comincia a farla veramente da padrona nel mondo comunicativo. E poi naturalmente l'evoluzione, tutto quello che c'è stato, lo sapete meglio di me, insomma. Il videoclip di questo brano è stato girato completamente in ambienti oscuri, dove si può vedere una fabbrica abbandonata, alcune strade e il cantante, naturalmente, Phil Collins, che esprime tutta la sua vocalità. Spilling beer on my shoes. Bad guys talking to me, trying to steal my blood. Siamo agli sgoccioli, quindi, agli sgoccioli della epica cavalcata che abbiamo fatto dal 69 fino alla fine degli anni 80, cioè quella che è stata la cavalcata poi dei Genesis, tutte le peripezie o un po' di peripezie, perché naturalmente in un'ora e mezza, quasi due, non ci sta tutta la storia di questo mitico gruppo, di questo gruppo che dicevo nasce progressive e muore pop. E le sue vicissitudini, dicevo, sono state tante, legate soprattutto agli addii di determinati autori, naturalmente, e di determinate figure, come quella soprattutto di Peter Gabriel, Steve Hackett, e poi alla fine naturalmente l'addio di Phil Collins, che decide di prendere una propria strada, e che è quella appunto solistica che la porterà a essere, insomma, uno degli artisti più osannati della scena pop mondiale. Era il 1992, e quindi la parabola Genesis si chiude, inizia in maniera preponderante quella di Phil Collins, ma naturalmente poi nel tempo i Genesis hanno fatto una serie di apparizioni, anche perché la cosiddetta reunion è stata più volte ventilata, ci si è riusciti una decina d'anni dopo, nel 2002, ma non completamente, perché Steve Hackett e Peter Gabriel non hanno partecipato a questa reunion, quindi in tre si sono esibiti credo a Londra. E poi insomma nel tempo ogni tanto si vocifera questo ritorno, questo rimettersi insieme, ma fino adesso non è successo, credo non succederà. Ormai le strade di questi musicisti si sono divise inesorabilmente e forse è meglio così. Ormai i loro anni e le loro esperienze hanno portato i vari leader, da chi da una parte e chi dall'altra. Ripeto, sicuramente l'abbandono di Peter Gabriel ha segnato uno spartiacque importante per questo gruppo, così come ha segnato uno spartiacque importante anche la preponderanza di Phil Collins nella gestione del gruppo. Bene, non ci rimane altro che salutarvi. Scusate, ci siamo allungati un pochettino, sono le 22:40, Radio Cerrano vi dà la buonanotte a questo punto. Io con Schegge Impazzite invece vi do l'appuntamento a giovedì prossimo, stessa ora, stesso canale se volete, perché ormai siamo su anche Periscope, quindi ci potete seguire in diretta video e poi ci potete seguire sulla nostra pagina Facebook. Naturalmente ci potete anche scaricare nel senso buono, nel senso che in podcast potete scaricare i nostri programmi, li potete riascoltare. Insomma, ci sono tutte, non ci sono giustificazioni per non fare un salto qui su Radio Cerrano, la radio del parco. Fresh music, come dice il nostro Stracchetto, più che altro si tratta di una vera e propria, non dico revival, ma a noi ci piace giocare sul filo della memoria e sul filo anche della buona musica. Speriamo di avervi fatto cosa gradite, di avervi anche accompagnato verso quella che è la notte che sta incombendo. Io e Carlo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo con Vincenzo e Mississippi Mood.